Me gusta. Mi piace. Mi hobby es. Il mio hobby è. Dan clases de. Impartite lezioni di. Jugamos una partita de. Facciamo una partita di. Fútbol. Calcio. Béisbol. Baseball. Baloncesto. Pallacanestro. Rugby. Rugby. Voleibol. Pallavolo. Tenis. Tennis. Ajedrez. Scacchi. Cartas. Carte. ¿Dónde puedo alquilar? Dove posso noleggiare? Quisiera alquilar. Vorrei noleggiare. Bicicleta de montaña. Bicicletta da montagna. Bicicleta de paseo. Bicicletta da passeggio. Pelota. Palla. ¿Hay alguna piscina? C'è la piscina. ¿Podemos nadar en el mar? Possiamo fare il bagno in mare?